tipo un oltraggio perché spacco, quindi levati dal cazzo che ti batto pure quando sto lo straccio. Il cuore è marcio, mi rimane solo il coraggio, ecco perché ti canto la forza che ci metto quando il rap e ti strappo l'applauso come fosse al brancaccio. E sei un poraccio se pensi che m'accanno, invece mi espando. Bella riga. Ok, questa è Pangea 2012 SIC 51. La sfida che mi chiama ed esco dalla tana, la voce che rimbomba come dentro una campana. Ti spiego quanto basta per mandarti a casa, anzi evito chiacchiere, alza la cassa che è davanti, basta avanza. Ti parlo allora di qualcosa che ha sostanza, ma che mette l'ansia a fine notte quando sveglio l'alba. Mi guarda in faccia, non sa mai che dire, sta di accendere un altro giorno nato per finire. Mi porge il sole, se lo scansa è per una ragione, odio il tramonto che ricorda come il tempo muore. Amo la notte fonda perché domina le ore, in quelle ore sono ovunque mentre credi che sto altrove. Mi beo di quello che la vita crea, divento un blocco di energia tipo Pangea, l'erba che illumina l'idea ma poi la para che mi fa di nuovo rea. Se non ho fama ma nomea come Medea. Bella riga. E quando dico fe voi rispondete dra. Fe? Fe? Fe? Belle. Brasca sul beat, Grimlock Records. Ho visto battiti sfuggire dal mio tempo, come il sole dal cemento, come voce da un lamento, come ansia dal mio petto, come un gemito dal letto, come il tuo rispetto. Capito a stento quello che mi hai detto, sicura che non smetto, metto in atto quanto ha scritto sul quaderno. Pensi che scherzo, pensi male, penso che stia poco sveglio, sputato il sangue per rappare, adesso levati di mezzo. Se non ti appresto non ti chiamo, per un pezzo non ti voglio al concerto e non toccare un fratello, potrei dare il mio peggio. Certi valori non li butto nel cesso, anzi ringrazio mia madre perché ha fatto il suo meglio. Sto dalla parte di chi ha perso e meritava il consenso, e mo' alle catte il culo giuro manco ci penso, che se volessi potrei stare lì in mezzo, ma resto con chi stimo da un pezzo. Mi sono preso il tempo per spaccare, adesso lasciami passare. Sempre stata brava in questo affare, sempre fatto il mio da fare, parlo quando è indispensabile parlare. Zero chiacchiere da infami. Tu mentre stai parlando della strada e del catrame, vai in giro per i club con le puttane e me ferate. Ame. Che scena, li vedo che si aggirano, sorriso finto in viso, cervello scotto tipo chicco deriso. Che pena, c'è gente che ci spera, che pensa che col rap ci puoi esportare la vita intera. Crepa, io punto a Roma, la mia zona, San Basilio, Nomentano, adesso pure i Colli, Casanova. C'è un par di cuffie come mie migliori amiche, la voce come tramite, tra quel che penso, quel che voi non dite. Le vie non sono mai state infinite, la fortuna non sorride, ma continua, accetto sfide. Potrei spiegare che tra il bene e il male c'è sta mezzo al mare, ma è retorica banale come la parola astrale. Sono tante le cazzate che sento, la prima è quella che sei il primo sul tempo, due che vieni dal cemento, tre che c'è rispetto per te stesso e le che cura al primo sesso. Sveglio, adesso lasciami passare, zero pare. Sempre stata brava in questo affare, sempre fatto il mio da fare, parlo quando è indispensabile parlare. Zero chiacchiere da infame. Ok, avanti. Oh, non sono pudica ma manco te la sbatto in faccia. Non sono lurida ma manco mi vesto con l'ansia. Mi frega un cazzo se mi vedi blanda, io sono fiera di questa mia faccia franca. Nessun cerone per fare la figa della situazione, basta che prendo fiato canto, porto avanti il nome. Se la bellezza è un'assicurazione, io ci metto zero ad acchittarmi da copione. Ma voglio stare altrove, ricorda bene il nome Fedra. Io la guerriera, queste corde, il mio plotone nell'azione. Non voglio un'opinione, voglio un quarto di attenzione. Adesso zitto e muto ed esci dalla situazione. Oh, ok, vai col beat. Defa Beat 3Q Studio. Oh oh, le mani su, oh oh oh. Temo il buio fino al punto che sto in fissa. Mi ci fiondo per provare stanza fissa. Cuore batti forte che mi dai la spinta. Cuore non ti rallentare, troppa calma mi depista. Fossi buddista avrei chiara la vista, sarei realista. Nessuna smaglia di conquista qua, nessun nemico sulla lista. E poi nessuna lista con il nome mio. Cristo da Dio invece è tutto come non dico io. Per quanto faccio come voglio io, per quanto sbaglio come voglio io. Che se finisco nell'oblio mi ci trovo bene. Proprio al top sotto sciocchi i miei pensieri volano. Oh sto bene, oh sto male. La musica che toglie poi ridale. Se separe è un caso maniacale. Siamo bestie col collare, fammi passare, non ci si può adattare. Oh, le mani su, oh, oh. Ok, oh, avanti. Su 51. Ecco che siamo tutti accatastati come gradini delle chiese. Siamo consumati, siamo affannati, deviati, siamo logorati da traguardi mai sfiorati. Siamo fiori con i petali falciati e camminiamo ancora sempre a testa alta e ci illudiamo ancora di fare quel che basta, ma non facciamo mai quello che serve, ma è abbastanza. Beata l'ignoranza che si scansa da costanza, figlia della speranza, ma la speranza arranca in fretta la mia età che avanza. Perdo consistenza ma non perdo la sostanza, perfettamente pazza sono nata con la faccia da prigioniera libera che adesso è la ribalta. E non mi basta stare a testa alta, sotto i piedi questa fiamma non riscalda se non giunge anche alla massa. Suona strana questa barra, la mia rima si fa salma ed ecco il dramma. Oh oh oh, ok, a posto così, lava la base. Ok, ah, buono buono quel beat. M'è arrivata troppo in alto per cadere. Sto nel mezzo, vedo cose che voi non vedete. Siete come le tenie, vi espandete in serie, come le iene che ridono insieme. Qua per voi tutto va bene, finché conviene, finché la gente chiude un occhio, si trattiene, continuate a darla a bere. Io continuo a non vedere, nel silenzio delle sere scrivo, per chi crede in me, per chi ci stava ora non c'è, per chi non c'era adesso c'è, per ogni nascita una lapide. Ancora mi commuovo, mi si appanna l'iridea. Ancora ridi te che vali come rama, io faccio per tre. Cioè, non ti capisco quando parli, man, ma vedo che con due marchette sei arrivato questo rap. Io resto fuori dai cliché, tu resti fuori dalla mia top ten. Meglio al margine che l'attitudine da band. Oh, bella riga, grazie a tutti. Bella, grazie.